Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Continua la corsa per riuscire a catturare l'energia da moto ondoso, una corsa che si è rivelata irta di ostacoli tecnici ma che sembra arrivata vicina al punto di svolta. Negli ultimi 2 o 3 anni infatti sono comparsi nuovi prototipi di nuova concezione che promettono di avvicinare i costi dell'energia da moto ondoso a quelli delle altre rinnovabili sviluppate come per esempio il vento e il sole. PEWEC, di cui parliamo stasera, è l'ultimo di questi prototipi progettato dall'Enea insieme al Politecnico di Torino per le condizioni tipiche del Mar Mediterraneo, è stato studiato soprattutto con una forte attenzione, diciamo, ai costi di produzione. PEWEC sta per Pendulum Wave Energy Converter, cioè letteralmente convertitore a pendolo di energia da moto ondoso. Ne parliamo con Gianmaria Sannino, ricercatore dell'Enea. Buonasera Sannino. Buonasera a voi. Allora, senta, io l'ho visto a Roma in versione ridotta, il vostro PEWEC, ed è letteralmente un grosso scafo, un po' come una fetta di limone da aperitivo di forma, con dentro un grosso pendolo. Ci spiega? Sì, assolutamente così. In realtà assomiglia tanto a un guscio di una noce, al cui interno c'è un pendolo, e il moto relativo del pendolo rispetto all'oscillazione del guscio d'uovo, quindi del nostro scafo, quando si trova nel mare, genera elettricità, perché attaccato al pendolo abbiamo un semplicissimo generatore elettrico. Perfetto, quindi è un sistema relativamente semplice, è tutto chiuso, vero? È uno scafo totalmente stagno, quindi rimane in mare senza problemi. L'idea nasce fondamentalmente dall'unione, se vuole, di due tecnologie ormai millenarie, quindi un semplice scafo con un pendolo, che è la prima cosa che viene in mente quando si ha a che fare con un moto oscillatorio. Come delle onde. Certo. Ecco, intanto quanto sarebbe grande questo scafo una volta sviluppato in scala 1-1? Quello che ho visto io era un oggetto di 3 metri per 2 di altezza e 3 tonnellate di peso. Beh, il sistema che abbiamo presentato a luglio e che ha visto anche lei era in dimensioni 1 a 10, quindi bisogna immaginarci 10 volte più grosso, quindi sarà una sorta di zattera, in questo caso lunga circa 30 metri. Ecco, e quanto produrrebbe di energia? Che potenza avrebbe? La potenza si aggira intorno ai 400 kW, quindi con circa 10 di queste macchine si potrebbe dare energia a circa 3.000 persone. D'accordo, ed è un oggetto galleggiante che quindi può essere lasciato anche ormeggiato abbastanza a largo, credo, no? Assolutamente sì, viene ormeggiato ad una distanza tale per cui da terra non sarebbe assolutamente visibile, ad una profondità tale che però ci consente di poter arrivare all'oggetto in maniera relativamente semplice, e anche in maniera relativamente semplice riuscire poi a fare la necessaria manutenzione. Ecco, dicevamo del fatto che questo PEWEC è stato progettato con una particolare attenzione all'ottimizzazione dei costi. Ci spiega che accorgimenti avete adottato? Molto semplici, abbiamo cercato di costruire questo oggetto partendo da componenti che si trovano già in mercato, quindi l'intero PEWEC è costituito, a parte lo scafo che è stato ovviamente realizzato ad hoc, ma si parla di 4 lamiere attaccate. Qualcosa che la cantieristica navale italiana potrebbe fare così, assolutamente con le mani legate dietro la schiena. Assolutamente in grado di realizzare, il resto è tutto realizzato con componentistica che si compra, per intenderci, anche via web, online. Ecco, e pur non potendo adesso entrare nei dettagli, comunque questo sistema ha delle caratteristiche piuttosto sofisticate, in particolare la capacità di adattarsi a moto ondoso differente, nonostante questa attenzione, diciamo, a contenere i costi, e questa invece è una caratteristica molto rara nei sistemi appunto per produrre energia da moto ondoso. Assolutamente sì, tutto questo nasce dal fatto che il nostro sistema deve poter generare energia anche nel Mediterraneo, che come tutti sappiamo sicuramente non è il mare più ricco di energia dal moto ondoso, del resto il surf non è lo sport nazionale in Italia, ma il fatto di riuscire a catturare questa energia particolare, quindi di onde non estreme, non particolarmente alte, con una frequenza molto elevata, ci ha spinto a generare qualcosa che sia, come dire, adattabile, quindi è un po' come un violino, però un violino che si deve regolare tutte le volte allo stato del mare che si trova ad affrontare in quel determinato momento, ed è effettivamente il cuore del PEWEC. Quindi se è vero che la componentistica è estremamente semplice e facile da realizzare, il cuore, quindi la parte, se volete, matematica, fisica, che è alle spalle, all'interno del PEWEC, è estremamente complicata ed è quella che fa la differenza, soprattutto in termini di quantità di energia che si riesce a estrarre anche all'interno del Mediterraneo. Ecco, quindi è proprio un'elettronica intelligente di bordo che fa sì che a volte anche con delle onde molto piccole, io ho visto dei filmati, questo oggetto invece oscilli moltissimo, producendo appunto tanta energia. Va bene, grazie Sannino. Grazie, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.